Roma Trastevere, 16 novembre 1966. Care Eleuterio, la casa che mi vide intenta agli studi, ora mi vede intenta ad angosciosi pensieri. Sono qui, dubbiosa e incerta come un teleutente che, non avendo ascoltato le spiegazioni della Gambineri, non sa dove va incollato il francobollo sulla cartolina concorso. Il cielo è pieno di nuvole bianche, Eleuterio. E io penso che le nuvole bianche non sono che il sapone da barba di un cielo che si vuol fare bello. E penso anche che sei uno stupido, caro, perché non si litiga con la propria moglie per una porta che batte. Sempre tua. Roma Parioli, 17 novembre 1966. Adorabile sempre mia, la casa che ti vede piena di angosciosi pensieri sarà sempre più felice di quando non ti vede, perché quando non vede te, vede soltanto tua madre. Sono uno stupido, hai ragione. Infatti non si bisticcia e non si grida per una porta che batte, a meno che non batta, come nel mio caso, su quella parte del viso che complessava Cirano e chissà perché non complessa Gaber. Il mio naso da ieri arriva sempre prima di me alla porta di casa, tanto che per uscire senza nuovi infortuni devo avanzare l'inculando. Ciao. Ho scritto: quando parla tua madre usando il femminile non lo faccio per convinzione, ma soltanto per non avvilire tuo padre, Eleuterio. Roma Trastevere, 18 novembre 1966. Caro Eleuterio, gattastro, pur restando coerente con i vezzeggiativi, li minimizzo con l'indifferenza. Mia madre oggi ha avuto una discussione con il portinaio e lo ha chiamato Eleuterio. Il portinaio ha reagito violentemente. Ti conosce di persona o per le descrizioni di mia madre? Il primo libro che mi regalasti da fidanzati è lì, sull'austera libreria inglese. E penso che una libreria inglese, in fondo, non è altro che una cristalliera italiana che ha studiato a Oxford. Ti prometto che non batterò più la porta sul tuo naso. La prossima volta cercherò di battere direttamente il tuo naso sulla porta. Per amore degli infissi, sempre tua. Roma Parioli, 19 novembre 1966. Adorabile sempre mia. Incredibile, ma senza di te non mi diverto nemmeno un po'. Un uomo che lavora ha pure il diritto di farsi due risate guardando la propria moglie in bigodini. Ho pregato la mamma della portinaia ieri sera di passare un momento da me. Ma sei molto più buffa tu. Torna. Devo essere malato. Da quando non ci sei ho sempre la bocca tremendamente impastata. Ciao. Ho scritto: la portinaia ha svelato il mistero della mia bocca impastata. Non sono ammalato. Ho sbagliato tubetto. E da quando sono solo non faccio che lavarmi i denti con la tua crema di bellezza. Eleuterio. Roma Parioli, 19 novembre 1966. Caro Eleuterio, micione, sono di nuovo qui, nella nostra casa ordinata, pulita, piena di sole. Mi correggo, solo piena di sole. A proposito di pulizia, la prossima volta che resterai solo, uscendo di casa, pulisciti i piedi per non sporcare il pianerottolo. La portinaia ha protestato. Tornando, ho guardato con rinnovato compiacimento l'erba del nostro giardino. E penso che l'erba non è altro che la bocchetta dei prati. Mentre ti aspetto, non posso fare a meno di pensare al nostro ultimo litigio. Ricordo perfettamente come avvenne la cosa. Io dormivo tranquilla quella mattina quando... Ehi. Ehi, psst. Tu. Mm? Sveglia. Dice a me? No, dico a mia zia Carolina. È arrivata la zia Carolina. Ah, che sorpresa. Svegliati, io devo uscire. Da quando in qua, prima di uscire, chiedi la mia autorizzazione? Non ti sto chiedendo l'autorizzazione, mi serve una camicia. Pulita? Perché come vorresti che me la mettessi la camicia? Dove sono finite le mie camicie? Sono da asciugare. Tutte? Dici tutte, come se dicessi 2000, invece sono soltanto 12. E sono tutte 12 ad asciugare? No, ad asciugare ce ne sono 11. Una è soltanto da stirare. E allora stiramela, svelta. Dov'è la camicia da stirare? Dov'è? Eccola! Quella! Questa, perché? Vedi, cara, se fossi sicuro che il proiettile di una normale rivoltella riuscisse senza rimbalzare a superare quella faccenda che avvolge tua madre e che lei chiama inadeguatamente pelle, io sparerei alla vecchia! Non ti permetto di chiamare vecchia mia madre. E poi lei cosa c'entra? Ma tesoro mio, se ti hanno trovato sotto il cavolfiore, allora tua madre non c'entra. Ma se sei nata come penso io, tua madre c'entra. E come? Ti pare possibile che io esca con una camicia rosa acceso con righine di un bel verde acceso? Perché? Che c'è di strano? C'è di strano che nell'armadio, oltretutto, c'è un unico vestito. Quello che mi hai regalato tu insieme a quell'orribile camicia, quello di quel colore curioso che sta tra la banana e la brioche. Marroncino smorto. Sì, può darsi, ma io non posso uscire vestito di marroncino smorto con una camicia rosa a righine verdi. Le altre sono tutte da asciugare. Lo so, me l'hai detto. E i vestiti? Dove sono i miei vestiti? Quello grigio, per esempio, dov'è? In tintoria, come tutti gli altri. Me lo hai detto tu di portarci. Ma io te l'ho detto alla fine di agosto. E perché io quando ce li ho portati? Alla fine di agosto. E tua madre a quest'ora è lì tranquilla, che dorme. E non sa niente la vecchia. Io ho detto di non chiamarla vecchia. Adesso ti stiro la camicia. No, non posso andare in ufficio così. Perché mai? Staranno tutti a guardare te. Non lo so, comunque i miei dipendenti sono quasi tutti napoletani e io vorrei evitare se possibile i commenti sonori. È chiaro? Quante storie. Quando ti ho conosciuto io eri vestito di verde. Sì, ma eravamo tutti vestiti di verde. C'era la guerra e io ero sottotenente di fanteria. Bella carriera, sei rimasto sottotenente. Questo non c'entra. Voglio un vestito e una camicia per uscire. E non alzare la voce, altrimenti torno da mia madre. E non sbattere le porte. Le sbatto quando voglio. Sei un bruto, torno da mia madre. Io non ho capito che cosa trovi di materno in un rullo compressore. Comunque torna. Ci torno e sbatto anche la porta. Sbattila, dammi una scusa. Ho sempre sognato di fare una spremuta di moglie. Sbattila, sbattila prima di tornare dalla vecchia. Sei un pun... E io la sbatto. Ehi. Ma quando rientrerai? Farò finta di niente. Ciao. Ciao, Eleuterio. Devi uscire domattina. Sono 20 anni che esco tutte le mattine per andare in ufficio. Allora ti servirà una camicia. Già. Da stirare c'è solo quella rosa a righine verdi. Le altre sono ad asciugare.